zanzara veramente, io credo in Dio, ma se dovessi trovare una falla nell'ordinamento è la zanzara, perché non ha un motivo di esistere. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Mia moglie dice che questo programma è per persone ignoranti e poco strutturate. Per me è deleterio e quindi non posso più ascoltarvi. Siamo al top. Cruciani, sono in spiaggia qua da qualche parte sul litorale partenopeo. Mia moglie è in acqua con i bambini e io steso a prendere il sole ammirando il mare e i culi delle donne. Un cannone in mano e nelle cuffie c'è lei, la zanzara. Beh, siamo al top, eh. Siamo veramente al top. Vabbè ragazzi, amico mio, non è che il cannone è necessario per forza, eh. Cioè adesso uno può tranquillamente ascoltare la zanzara senza farsi un cannone, cioè si può tranquillamente, cioè non c'è crimine, eh. Non c'è crimine. Allora, un signore che non rappresenta nessuno, che si chiama Juncker, non rappresenta nessuno. Beh, nessuno, insomma. Nessuno, nominato da altri, nessuno l'ha scelto. Ma tu, che altri, dai, cittadino europeo, non hai scelto nulla, niente. Un signore che si chiama Juncker, che non rappresenta, ripeto, nessuno, secondo me, nessuno, nel senso che nessuno l'ha votato, eccetera, e ha pure qualche piccolo scheletro negli armadi nel suo passato, dal punto di vista, come dire, fiscale. Beh, perché viene da un paese così. Beh, lasciamo perdere, poi ne parleremo magari se qualcuno ce lo vuole ricordare tra gli ascoltatori, senza bisogno che lo ricordo io. Signore, Juncker si rivolge a un certo punto al Parlamento europeo, al grande vincitore del referendum inglese che si chiama Farage, e gli dice: lei è l'ultima volta che applaude in quest'aula. Giusto. La democrazia è la democrazia e noi dobbiamo rispetto alla democrazia britannica e all'espressione che ha scelto di darsi. That's the last time you are applauding here. È l'ultima volta che può applaudire in quest'aula. Mazza, che battutone, oh! Che battutone il signor Juncker! Ma sentiamolo bene in inglese, Qualcuno dice che i parlamentari inglesi dovrebbero addirittura andare via, dimettersi, dare via il loro stipendio, eccetera, eccetera. Restituirlo subito. We must respect British democracy and the way it has voiced its view. That's the last time you are applauding here. Bellissimo come signor Farage prende per il culo questi signori, fottendosi lo stipendio da parlamentare europeo e nello stesso tempo tirando pernacchi all'Europa. Tutto sì, ciò dopo aver tutto ciò soldi a sbaffo e aver detto agli inglesi che i soldi che non danno più all'Europa li daranno in sanità, dopo aver raccontato una balla. Tu come sai le menzogne fanno parte della politica. Ecco, ma speriamo che gli inglesi lo prendano a calci del sedere il nostro amico. Per adesso non l'hanno preso affatto a calci del sedere. Speriamo, si stanno tutti pentendo, mi pare. Ma questo lo dici tu che fai l'interprete degli inglesi? Che cosa fai l'interprete degli inglesi? pare di capire che gli scozzesi sono i primi che ad esempio fanno di tutto per provare a rimanere in Europa. Ci vabbè, ma questo è un altro discorso, la Scozia fa parte della Gran Bretagna. In ogni caso, la cosa più vergognosa che ho sentito in queste ore viene da alcuni presunti rappresentanti del popolo, i quali ovviamente hanno un concetto di democrazia a seconda di quello che conviene. Per esempio, vi faccio un piccolo esempio, ma abbiamo già detto la settimana scorsa, Saviano che paragona il voto degli inglesi a quello della Germania nazista. La stessa operazione fa una signora che non pensavo nemmeno fosse ancora sottosegretario, anzi è ex sottosegretario alla cultura e al turismo, che si chiama la Barracciu del Partito Democratico, comunque un esponente del Partito Democratico, in spregio totale della democrazia e del voto di un popolo a maggioranza eccetera, la quale dice anche questo era il popolo e mette le foto di Mussolini. Certo, giusto questo piano. Ma giusto un cazzo, cosa giusto? Cosa giusto? Cosa giusto che cosa? Ma come fai a ricordare, a paragonare un voto, inglese, un voto inglese sì, col voto? Ma non è che sempre il popolo ha ragione, cioè, ad esempio, ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Non è che sempre il popolo, siccome ha deciso e allora ha ragione, perché il popolo in Italia decide anche il fascismo. Una cazzata sesquipedale, non si possono assolutamente paragonare le due cose. Infatti la democrazia è fatta di check and balances, quindi sì, non è check che and ha balances, tutto, sì, non check è che ha balances. Soltanto il voto popolare. Tu pensa cosa succederebbe? Allora la signora Comi, la signora Comi, sì, bravo. Dunque quelli che ascoltano la Zanzara sono un'immondizia. Bella no, questa quelli cosa. Che chiamano, non quelli che ascoltano. No, hai detto quelli che ascoltano. La signora Comi, la signora Comi dice che gli stipendi dei parlamentari inglesi sono lì per compensare, dovrebbero essere restituiti. Senti, una cazzata pure questa. Penso che gli stipendi dei parlamentari inglesi servano a tutti gli stati membri per cercare di compensare gli errori e i danni che arrivano dal Brexit. A parte che i danni, bisogna vedere se sono danni e per chi sono danni. Con gli interessi. È una puttanata pazzesca, una di quelle cose inaudite. Come tutti quelli che continuano a dire che queste cose non possono essere sottoposte al referendum. Sì, quello non c'è dubbio. Sì, ma tu fai parte di un concetto di Bilderberg, di un concetto di democrazia che è tutto relativo. Quello della Costituzione, no, nulla sì. È relativo. Certo. Io dico semplicemente che in Costituzione Senti Severnini. Hanno messo una ma cosa c'entra? Non si vota sui trattati internazionali. Io mi vergogno di quella roba, Severnini, senti. Cameron ha commesso un errore gigantesco, questo non era un tema da sottoporre al referendum, perché a referendum si sottopongono temi. Allora, molto criticato dal PD l'intervento di Di Battista ieri in Parlamento, ovviamente prima della partita. Renzi, le è arrivato un avviso di sfratto. Faccia gli interessi del popolo italiano in fretta, altrimenti tanto sa che manca poco, che ci saremo noi molto molto presto a fare gli interessi di quel popolo che a lei ormai costantemente lo fischia. Perché ha detto che querela, che querelate. Ma sono medaglie al valore le querele fatte da voi, querelate, ma che pensa di intimorirci? Avete preso una batosta recentemente, neanche avete detto due parole, pensate di intimorirci con le querele quando diciamo la verità, quando stanno ancora aspettando i risparmiatori di Banca Etruria che sono stati truffati dalle vostre scelte. Deputato Di Battista, possiamo andare al merito cortesemente? Andiamo al merito delle comunicazioni, la prego. A lei è arrivato qualche giorno fa un avviso di sfratto. Lei ha detto il voto per il Movimento 5 Stelle è un voto di cambiamento e non di protesta. Benvenuto nella realtà. No, perché il mondo che frequenta lei è quello in cui con gli 80 euro le persone si comprano gli zainetti, mentre in Italia 10 milioni di cittadini non riescono a curarsi e 4 milioni di italiani vivono sotto la soglia di povertà. Lei dovrebbe avere un po' di umiltà, è la sua arroganza che la sta distruggendo. Concluda. Non ho mai visto uno così più arrogante di lei, borioso come lei in questo concluda, momento. Deputato. A noi ci interessano, concludo, Presidente Boldrini, queste proposte. Allora, cosa c'è ancora dai giorni passati? Meloni che confonde Dublino con l'Inghilterra. In realtà poi non si capisce bene se cita Dublino così come posto in cui è stata in quelle aree lì o attribuisce Dublino all'Inghilterra. No, no, non voglio pensare che si arrivi a tanto. L'onorevole Meloni, quando lei è stata l'ultima volta in Inghilterra? Non a Londra, Non a Londra, nell'Inghilterra che ha votato per Brexit. Non lo so, sono stata a Londra molto spesso. Ultimamente sono stata a Dublino, sono stata in Scozia. Insomma, Dublino sono in stata Irlanda. In giro, poi non ho la presunzione di Dublino rappresentare. In e la non ho la presunzione. Sì, Dublino. Le chiedo scusa. Sì, le chiedo scusa, non ho. Sì, hai ragione, mi sono sbagliata, ha chiedo votato scusa. Per Remain. Secondo me lo sai che in realtà mi sono fatto un'idea che chi ascolta questa trasmissione non potrebbe votare, forse andrebbe tolto il diritto di voto a chi ascolta questa trasmissione. No, chi ascolta, no, a chi interviene. No, ma anche chi interviene, uguale, va tolto il diritto no, di voto a seconda della formazione culturale, cioè sì, se tu non hai... Un po', qualcuno lo diceva che la formazione culturale è importante. Sì, ma infatti... In ma infatti per deliberare. Ma infatti... presupponeva in Audi che ma secondo me quel su cui vota, capito? Sì, secondo me la tua idea è questa qua, ma... Cioè, no, la mia idea te la dico. Io, no, tu è che se un... sì, certo, se uno non cioè, sa, se uno non è. Io non penso di conoscere tutto. Di no, tutto, però tu sai più, tu sai di no, più, no. Sai più degli altri, è giusto che tu no, voti. Mentre un altro no, che interviene, che non ha magari la scuola media superiore, io credo che non possa votare. È anche questo giusto così. Questa è la tua idea di democrazia. No, la mia. La tua idea di democrazia è assolutamente questa. Perché conoscere per sì, e chi decide chi conosce e chi non conosce? Scusa, chi lo sa, chi lo decide? Conoscere per vale. Deliberare, cioè ci sono alcune materie sulle sì, quali, sulle quali le... no, per carità, assolutamente. È difficile conoscere, ma infatti anche sulle tant'è che su alcune materie sì, no. decide il Parlamento, cioè decidono i partiti, quindi decidono i cittadini che hanno mandato in sì, Parlamento certo. Alcune persone sulla base di alcune idee. No, alcune ma non c'è dubbio, non c'è dubbio, non e c'è dubbio. Altrimenti oh, perle Sittona, ma stai zitto un secondo, che ci sono 2 ore e mezza. Stai zitto un secondo, no, che già non si, no, che già non si sente una mazza. Già non si sente, già non si sente. Niente, non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, dai, via. Andiamo, pubblicità, dai. Mi trovo in Lapponia, 300 km a nord dal circolo polare artico, e ascolto la Zanzara. La Zanzara. Ma non possiamo sostituire la signora Boldrini con la signora Lores della provincia di Vicenza. Allora, mi riferiscono che il professore Sgarbi ha detto che gli fanno cagare quelli che guardano il calcio. Più tardi lo chiamo per dirgli che ha detto una stronzata memorabile. Se a lui non piace il calcio, chi se ne frega. Non capisco perché devono far cagare quelli che guardano il calcio. Quando c'è l'Italia mi fa schifo, eccetera, eccetera, eccetera. Dopo gli faccio un mazzo così, Se facesse i cazzi suoi, se a lui non gli va di seguire l'Italia, chi se ne frega? Sì, però è vero che si blocca tutto, si blocca gli uffici pubblici. Amico mio, ma gli uffici pubblici, ma dove mai, quando mai ci sei andato in un ufficio pubblico? Ma che ti frega? Tutto, dai, ma si blocca tutto. Tutti che guardano la partita, cazzo, lavora, no? Invece tutti che guardano la partita, dici sì, ho capito, guardi la partita. Ma se la partita era alle 18, ma non dite cazzate. Quelli che guidano gli autobus, l'altro giorno l'ho notato perché ho fatto un pezzo, peraltro, che avrà in onda, dove c'erano quelli dell'autobus che ascoltano la partita. Beh, che c'entra questo? Scusa, dai, non ho capito. Ragazzi, ma cosa c'entra? No, ma se non ti piace il calcio, sono cazzi tuoi, no? No, ma a me piace. Non è che devi riversare, non è che devi riversare sugli altri. Quando guardo l'Italia lo guardo, però se si blocchi il paese, ma si blocca, ogni paese è bloccato quando c'è l'Italia, dai, non diciamo ma stronzate, che è dai, su. Paese. Il Papa dice che bisogna chiedere scusa ai gay. Avanti. Il Papa, dobbiamo chiedere scusa ai gay. Bah. Non vanno discriminati. Devono essere rispettati. Accompagnati. E i cristiani dobbiamo chiedere tante scuse. Non solo su questo. Perdono, non solo scuse. I cristiani devono chiedere perdono ai gay. Beh, dipende, quelli che dicono che i gay sono dei pezzi di merda, quelli che dicono che i gay, eccetera, eccetera. Se, non tutti, eh. Allora, Andrea da Monza, vai, iniziamo, vai. Andrea, dimmi. Ciao, volevo chiedere al democratico Parenzo, che dall'alto della sua grande smania di fare denunce a destra e a sinistra, lui nell'ultima puntata, al minuto 61, definisce in coglione il segretario nazionale di un partito italiano. Sì, politicamente. Quindi volevo capire se ci vuole... politicamente o meno, questo è un altro discorso. Era tu una accusa politica. Politicamente? No, no. Umanamente no. Politicamente. Sì, allora, sue, guarda, ti do una notizia. Per radio non ci sono i sottotitoli. Mm. Per radio non ci sono i sottotitoli, non si può capire quello che tu dici. Tu dici coglione una persona, politica, che è il segretario nazionale di un partito. La persona, io non la conosco denunciarti? Di persona. Se vuole mi denuncia lui, non c'è problema, ma la mia è un'accusa politica rispetto alle sue idee. Poi dopo uno... umanamente io non lo so, ma a chi ti riferisci, Andrea? Scusami, Andrea, ma a chi ti riferisci? Non ho capito. Al segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore. Vabbè, ma se uno dice che è un coglione politicamente, dov'è il problema? Ma non è, io non ho sentito la parola politicamente, io ho sentito solo la parola. Mi riferivo alla sua carica politica, non all'uomo. L'uomo chi se ne frega, io non ho nessuna conoscenza della persona, perché per fortuna non l'ho mai frequentata e mai la frequenterò. Ma guarda, quando allora io ti posso dare del coglione dal punto di vista del giornalista. Beh, certo, infatti lo fai, ma io non è che per questo mi arrabbio. Io mi arrabbio quando sono le offese personali, su cose personali, sul fatto che tu ti senti da me. Va bene, Andrea, poi? Mi fa solo piacere. Perfetto, io volevo, perdonami David, volevo dire un'altra cosa. Sì. Volevo chiedere a voi, che siete degli autorevoli esponenti del mondo giornalistico italiano. Non siamo affatto autorevoli, non siamo esponenti di nulla. Forse sì, Parenzo si sente autorevole, a me non me ne fotte nulla. Vai, no, vai. Nulla. Comunque, chi vi sgancia lo stipendio ha trovato un accordo il giorno 20 giugno, è pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno, per finanziare corsi di formazione per gli immigrati e farli entrare nel mondo di Confindustria. Quindi accordo Ministero dell'Interno, Confindustria... Non lo so, indagherò, ma in generale non me ne frega niente. Sputando in faccia ai giovani disoccupati italiani. Ma credo che sia... non mi interessa di queste cose qua, mi interesso poco di queste robe qua. Ah, no. Questo non ti interessa? No, non mi interessa. Ma non lo so, giustamente tu lo devi difendere. Ma chi difende? Chi difende chi cosa? Tu sei tanto libero, ma alla fine tu mi devi spiegare per quale motivo il Ministero dell'Interno e il presidente di Confindustria fanno un accordo quadro pubblicato sul sito del Ministero per cui ci sputa in faccia ai disoccupati italiani. Ma questo ci sputa in faccia è una tua interpretazione, naturalmente. Caro amico mio, che cosa dice questo accordo? No, perché non ne sono a conoscenza, perché non me ne frega niente. Ma comunque, questo accordo dice che gli industriali che sono parte della platea di Confindustria hanno la possibilità di assumere questi presunti profughi avendo diritto a delle agevolazioni, quindi con corsi di formazione pagati ottimo, da tutti noi. Così è perfetto, è ottimo. Ma io non vedo la stessa cosa per gli italiani, non la vedo. Diciamo che gli altri possono già accedere agli ammortizzatori sociali per fare... Non lo so, non ho la minima idea. Un giovane che esce da scuola e cerca lavoro non ha un corso di formazione pagato dallo Stato. Deve arrangiarsi per i cazzi suoi. E per lo più deve andarsene all'estero. Mentre qui si fanno corsi di formazione pagati da tutti per giovani maschi africani che vengono qui a invadersi. Vabbè, questa è la tua interpretazione. Maschi africani che vengono qui a invaderci, va bene, per carità, se è legittimato a dirlo anche, e anche a insultare i proprietari di questo luogo da dove trasmettiamo, vedi come siamo liberi noi, no? Cioè, io non ho insultato nessuno, ho solo detto dal punto di vista giornalistico è un coglione. Sputano in faccia agli italiani, sputano in faccia agli italiani, eccetera. La parola agli ascoltatori, ragazzi. Sì, la parola di ascoltatore lo decidiamo noi, naturalmente, cioè non è che lo decidi tu. Sì, lo decidiamo noi. Anche gli altri ascoltatori che interverranno. E quando parla Donato D'Avarese, non dovete prenderlo per il culo. Io a Donato D'Avarese esprimo solidarietà perché il suo comune è finito nelle mani del nemico. Non devi, a me non me lo dici perché io faccio quello che mi pare. Non dovete, lo dici a casa tua dove forse ci sono maniere dittatoriali, insomma, di agire. Qui non deve, guarda, capito? A casa mia vige la legge del Duce. Ma no, forse vuoi. A te piace il Duce come modello politico. Ho capito, ma al di là di quello, io quello che volevo dire è che non bisogna insultare e prendere per il culo Donato D'Avarese quando parla, perché lui esprime in maniera sua dei concetti particolari. Però grazie del suggerimento. Grazie del suggerimento, Andrea. Sergio da Milano, vai Sergio. Eccoci, ciao, buonasera ragazzi. Dimmi. Ma allora, questo referendum sul Brexit ha il grandissimo merito di aver fatto uscire un po' allo scoperto tutti questi garantisti della democrazia, Giorgio Gori, i Sternini, gli Zucconi, tutta questa gente che si è affannata a dire che questi anziani ignoranti hanno fatto un disastro. Bravo, bravo, io sono d'accordo su questa cosa qua. La maggior parte delle persone che hai citato le conosco e penso che siano anche delle persone intelligenti. Purtroppo, infatti, purtroppo quando le cose vanno in un verso contrario a quello che loro amano, parlano di concetti, appunto, la democrazia, la cosa, non è sempre giusto quello che decide il popolo, eccetera, eccetera. Cosa che, esatto, non serve, che non serve dire. C'è stato un referendum, hanno vinto quelli, punto e basta. Adesso punto poi e basta, non sempre le cose vanno come vogliamo noi. Tra l'altro Juncker, che tu hai citato prima, è noto per essere, come dire, l'ex capo di un governo che era un paradiso, è ancora tuttora un paradiso fiscale di cui si parla pochissimo, ma che è evidentemente un paradiso fiscale. Una questione serissima. Beh, sì, ha costruito lui delle leggi che hanno consentito quella roba. No, assolutamente, non assolutamente. Lui, i capi di Stato e di governo, non lui da solo, diciamo. Quando era premier del Lussemburgo. Va bene, Sergio, grazie. Ciao, Simone, Roma, vai. Allora, io quello che volevo dire a Davide, soprattutto, che non ci sono tematiche che possono essere affrontate con un referendum e quelle che non possono essere affrontate. Sì. Poi te lo dico. Ti ricordo che il popolo italiano si è sottoposto alla scelta tra monarchia e repubblica, e quindi in quel caso non vi siete lamentati. Forse tu non c'eri. Quello era molto chiaro. Senti, ragazzi, il 90% delle persone che voteranno al referendum di ottobre, se mai Renzi ci consentirà di farlo, perché pare che ci siano pure dei dubbi, il 90%, il 99% delle persone non saprà una mazza, per cui è ridicola questa obiezione, è ridicola, è ridicola. Quello che volevo sottolineare è proprio questo, che è stato sottoposto ad un popolo, un referendum, che il popolo non conosceva, ma per colpa dei burocrati europei che hanno creato un'Europa per le banche e non per il popolo. Vabbè, ma lascia perdere questa cosa qua. Era di una tale chiarezza quel referendum. Sì, Giuseppe, lì. Ma se lo sottoponiamo a tutte le nazioni, tutte potrebbero votare per l'uscita. E questa è la domanda principe che bisogna fare. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Era di una tale chiarezza quella roba qui da suscitare qualche invidia rispetto ai referendum assurdi che facciamo noi, che sono abrogativi naturalmente, che sono tutti quanti incomprensibili. I nostri sono incomprensibili. Quello era chiarissimo e comprensibilissimo a tutti, altro che roba su cui non si può votare. Ragazzi, io dalle 18.56 alle 19.18 provo panico. Basta con questo traffico, giornale radio, basta. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Assicom, vendi bene e incassa meglio. Marketing, informazioni commerciali e recupero crediti. Assicom.com. La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Quando ci siamo messi insieme, alla mia ragazza ho fatto ascoltare La Zanzara e lei mi ha detto: ma chi è questo coglione? Adesso quando torno a casa la trovo che piscia nella doccia, caga nel lavandino, squarta il cane, si vuole fare una sua amica. Cruciani, ma hai rovinato la vita. Cazzo, era meglio Barisoni. Allora, caro David, qui c'è un Mauro da Mantova molto molto incazzato con te, eh? Bene. Te lo dico, molto medaglia. Molto molto incazzato con te. Medaglia. Allora, signor Mauro da Mantova è molto incazzato per questa frase che tu hai pronunciato. Frase che tu hai pronunciato in una delle ultime trasmissioni. Adesso, per carità, non è Churchill che è incazzato con te, non è. Però comunque è Mauro da Mantova, cioè un personaggio di questa trasmissione, diciamo la verità. Un personaggio. No, un clown, adesso non esagero. Purtroppo è reale, cioè non è che lui finge. Questo è il dramma vero, è che lui quelle cose lì purtroppo le pensa veramente. Vabbè, adesso non lo, non non lo ridurre a clown, è un personaggio. No, sarebbe, fosse un clown sarebbe nobile, ma siccome non è un clown di professione, quelli nei circhi bellissimi, invece lui purtroppo vive. Tu dici, vive. Crede nelle cose che dice, questo è il dramma. Esatto, è diverso. Esatto. Allora, il signor Mauro Mantova è uno dei tanti personaggi che affollano questa meravigliosa trasmissione, chiamasi Zanzara. In una delle ultime puntate, tanto per fare chiarezza, magari per chi ascolta la Zanzara la prima volta nella sua vita, questo non può accadere naturalmente, però può anche succedere per fortuna, e Parenzo si è espresso in questo modo. Sì. Mauro da Mantova può diventare un diamante. Beh sì, basta, anche un essere umano potrebbe essere con le ceneri di un essere umano. No, no, no, ma nello specifico, pensa a una merda come Mauro da Mantova, può diventare un 8 carati, non so quanti carati. Cioè si potrebbe addirittura valorizzare da morto, tu dici. Ecco, no, bravissimo, l'unica cosa a cui serve questo. Io anzi, fossi nella figlia di Mauro da Mantova, non ci penserei due volte. A reazione del Maurone, di Maurone nostro. Se si arrischia ancora quel coglione che hai in fianco a insultarmi quando non sono via col telefono, ti giuro, se la settimana prossima sono a lavorare, io vengo lì e lo pesto a sangue, quel coglione. Siamo quasi alla minaccia fisica, però deve capire Maurone che Parenzo è a Roma, non è a Milano, tanto per chiarire. No, se no, un'altra cosa da chiarire è se domani vado a lavorare, ha detto, cosa che penso purtroppo non accadrà. Ma... Vabbè, adesso, perché li devi portare male, cioè, qualcosa farà nella vita ogni tanto, no? Farà, ma no, il miserabile, vivrà alle spalle dei suoi familiari, vivrà una tragedia. Ma pensa che paese civile la Svizzera, no? Qualcuno mi segnala, i luoghi a Basilea, pensa a Basilea, i luoghi in cui a Basilea è permessa la prostituzione in strada saranno più evidenti a tutti. La città ha infatti deciso di contrassegnare in maniera evidente la zona di tolleranza, che è in una zona di Basilea, a indicare che su un determinato marciapiede le prostitute hanno il diritto di proporsi ai clienti. Campeggiano da ieri delle linee tratteggiate verdi. È un logo che rappresenta una donna stilizzata appoggiata a un lampione. Cioè, quello di cui noi ci vergogniamo, che è la prostituzione per strada, spesso, no? Che schifo, che orrore, perché la riportiamo... No, che tragedia, non che sì, orrore. Che tragedia, d'accordo, i miserabili, tutto quello che hai detto negli ultimi anni. No, ma per lo sfruttamento, sì, non per sì, tutto quello che... Addirittura in altri posti viene valorizzato, cioè la donna sul lampione col fuoco, no? Che da noi è considerata una roba terribile, una roba marginale, una roba schifosa. In altri posti civili, in altri posti ripeto civili, viene addirittura trasformata in un luogo dove c'è questa signorina appoggiata ad un lampione, un luogo favoloso. Perché non facciamo anche un logo della Zanzara fatto così, un logo della Zanzara così, con una donna appoggiata al lampione con scritto Zanzara sopra, bellissimo, meraviglioso, meraviglioso, nuovo logo della Zanzara con una signora appoggiata al lampione. Oh, pare che Berlusconi o chi per lui abbia fatto fuori il cerchio magico tranne ovviamente la fidanzata, no? Cioè Bergamini, Rossi, cioè, ci sono notizie da questo punto di vista, arrivano notizie. Ma al di là di questo, di cui non fotto un cazzo a nessuno, naturalmente, chi è intorno a Berlusconi e chi non è intorno a Berlusconi, cioè interessa gli addetti ai lavori della politica. È interessante quello che ci diceva il professore Sgarbi, credo poco più di una settimana fa. Cioè la fine di Berlusconi, secondo Sgarbi, si sarebbe realizzata quando gli hanno tolto le donne, niente di più vero. Perché è stato male Berlusconi? Perché gli hanno aperto il cuore, sì. Non per la operazione, ma perché gli hanno tolto le donne. L'uomo che ama deve amare. Beh sì, questo è vero, sì. Cioè gli hanno tolto... Da quando io l'ho visto, quelli lì stavano intorno, per impedirti di vedere altre donne. Io le prove, sì. La loro pressione, non per dargli piacere, ma per impedirgli il piacere di vedere altre donne. Uno che non può vedere le donne viene mal di cuore, poverino. È una teoria da prendere in considerazione, quella dello Sgarbone, eh? Una teoria naturalmente da prendere in considerazione. Oh, mancavano da un po' le notizie da Chiedimi se sono felice. E meravigliosa trasmissione di Radio 24 dedicata agli animali, dove se ne dicono veramente di tutti i colori. E ci chiamano diversamente intelligenti, ci copiano le espressioni nazi, non so che cosa, eccetera, eccetera. Noi ce ne fottiamo, naturalmente. Era ospite la signora Bonaccorti, se non sbaglio, ma chi è? La signora, la famosa Bonaccorti, eccetera. Lei, sì, era ospite. Che dice che non pesta le formiche. Ti giuro, ha detto così. Non pesto le formiche. No, beh, come fa? È assassina, diciamo, è sicuramente una serial killer, perché nella sua vita le sarà capitato e le capita ancora di pestare le formiche. Dice però che non le pesta. Sentiamo. Tu fin da piccola hai avuto questa attrazione spontanea e sensibilità verso gli animali, e questo credo che... Guarda, cercavo di non schiacciare le formiche quando camminavo. Grandioso. E tuttora cerco di farlo. E quell'altro che dice grandiosa. Cioè, uno che cammina cercando di non pestare le formiche. Se io voglio spaccare tutto, dico, tiro questo telecomando contro il vetro e lo spacco. Perché se c'è qualcuno che mi dimostra, che riesce a camminare, senza pestare le formiche, stando attento, a parte che questa persona qui deve essere ricoverata immediatamente, perché è evidente che ti prende una paralisi, no? Beh, cioè, come fai a camminare e poi stare attento? Cioè, ci metti per fare 20 metri, ci metti 48 ore. No, o sbatti la faccia contro un palo. Cioè, per arrivare da qui alla metropolitana, qui di Piazzale Lotto, che è vicinissimo, ci metti credo 3/4 d'ora. Cioè, per prendere un appuntamento, sicuro, devi partire 2 ore prima. Perché se devi stare attento dove vai a non uccidere le formiche, amico mio, cioè diventi matto, no? Per cui non è possibile farlo, diciamo subito, non è possibile. Andrea Arezzo, vai! Ciao, è fantastico essere in diretta. È fantastico, adesso sì, anche noi dobbiamo decidere se è fantastico il tuo intervento. Fino adesso hai solo detto che è fantastico essere in diretta. Sì, comunque ti accogliamo. Volevo salutare Davide Palenzo e di tanta stima per lui, perché lo stimo molto, mi piace. Hai tanta stima di Palenzo. Bene. E vorrei dire che non è che il pubblico non è solo ignorante. Per esempio, vorrei fare un checkmate, uno scaccomatto sull'affare del pisciare. Tu dicevi sotto la che doccia, vorresti eccetera. Fare, scusa, non ho capito, Andrea, cosa vorresti fare? Uno scaccomatto. Che sì, vuol dire uno scaccomatto sul fatto di pisciare? Una soluzione finale alla questione pisciare sotto la doccia. Milan Kundera, nell'insostenibile sottilezza. Bravo, giusta citazione. Lui diceva addirittura che i chirurghi decidevano di pisciare sul lavandino perché in fondo era più igienico. Perché se effettivamente la fai sulla tazza, anche se fai come me, che ho il bricchino che pulisco subito, la spalmi effettivamente. Cos'hai, scusa, il bricchino? Sì, vabbè, insomma, cos'è nel senso, per essere igienici al bagno. E che cosa fai? Che ma cosa cos'è il bricchino? Lascia fare del bricchino. Non è importante il bricchino. Ma no, ma hai citato il bricchino, sono curioso di sapere che cos'è il bricchino, scusami. Come? Che cos'è questo bricchino? Che cos'è? Un bricco che recupera la pipì che cade? Non ho capito, cos'hai? No, non c'è nessun bricchino, scusami, non ma non hai la voce un po' impastata, Andrea, non riesco a capire. Sì, scusami, probabilmente colpa mia. Cioè, che hai fatto? Hai bevuto? Che hai fatto? No, sono un ex alcolista. Ah, sei ex alcolista. Beh, c'è qualche traccia ancora. Però. No, vabbè, sono esagerato. Perché? Ve lo dico tranquillamente. Come hai superato l'alcolismo? Scusami. Ve lo dico tranquillamente. Io ho fumato dell'erba legale, completamente legale, mandata da internet, passata all'America, non ha principio di THC attivo, quindi... Cioè, hai fumato? Quando l'hai fumata, sta erba? Ma ora poco fa adesso. Ho finito di lavorare. Ah, questo spiega tutto, allora va bene. Vabbè, ma si è fumato una canna prima di... Ma perché questa abitudine? No, ma perché va bene, ma perché questa abitudine? In maniera legale, in che legale. Senso? Cioè, hai fatto venire l'erba dagli Stati Uniti? Sì, dagli Stati Uniti, in internet, legalmente, si può fare. Si può fare. È roba che non ha come principio. Sì, si può fare, che ne so. È roba che non ha come principio THC particolare, ha delle cose simili, non è buona come l'erba reale e viene importata dall'America. Non è una cosa che faccio regolarmente, l'ho fatta per provare. Io in realtà fumo normalmente. Che fumi? Marocchino. Eh? Marocchino, ma quante canne ti fumi al giorno? Rovinato. Due, tre al massimo. Al massimo tre canne al giorno, che sarà mai? Sì, ho da fare tanto, mi do tanto da fare. Mi alzo alle 6:30 la mattina a notte per andare alle 4:30 a lavorare. E dunque, se non ti fai le canne, non reggi? No, per carità, assolutamente, solo che mi aiuta a rilassarmi. Ti piace? Siccome sono un po' agitato, mi aiuta a rilassare. A rilassare, fermo là, fermo sì, lì, fermo lì, fermo lì, rilassati, rilassati. Amore, adesso non rompermi i coglioni, che devo ascoltare la zanzara. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Helios Patient Portal è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. La zanzara. Nel braciere della zanzara brucia il fuoco dell'anarchia. Parenzo, non riuscirai mai a spegnerlo con il tuo buonsenso. Viva l'anarchia! Allora ragazzi, io non so se sia vera questa notizia che ho letto su vari quotidiani del Trentino, però è abbastanza verosimile. Pare che un cooperante di un centro immigrati in Alta Valle Isarco, stiamo parlando, ripeto, del Trentino Alto Adige, abbia fatto un appello con tanto di numero di telefono: cercasi donne per soddisfare le voglie sessuali di 44 migranti. No. Sì, sì, sì. Cercasi donne per soddisfare gli appetiti sessuali dei migranti di Prati di Vizze. Ma l'appello, finanziato con i soldi della regione? L'appello lanciato da un cooperatore del centro di accoglienza. Sembra non sia uno scherzo, sembra non sia uno scherzo. È un cooperante che su Facebook ha praticamente lanciato questo appello per volontarie che vogliano in qualche modo soddisfare i migranti, che naturalmente hanno l'ormone molto alto e devono essere soddisfatti, devono essere soddisfatti. I centri di accoglienza cercano signorine per i profughi. Io spero non sia vero, però abbiamo conferme, abbiamo conferme. Cesare, provincia di Pesaro, vai. Cesare. Oh, ciao. Dimmi. Ascolta, io volevo soltanto... Aspetta, c'era Andrea che doveva finire. Andrea, ex alcolista. Sì, sì, sì, no, ma se vi attaccate a una canna fumata, ragazzi, allora... Io mi attacco, ma per me puoi fare, quello che vuoi. Si butta via mezzi dischi, si buttano via, come dicevo. Ma Andrea, per me puoi fare quello che vuoi. No, è ovvio, ovvio. No, e niente, volevo dire una cosa in 30 secondi. Si può smettere di bere da un giorno all'altro. Non credo proprio. Sì, no, ti giuro, cioè si può fare, perché... Quanto bevevi tu, scusa? Io bevevo una bottiglia e mezzo di vodka al giorno circa, più tutte le Ceres che riuscivo a bere, più facevo il cameriere in giro, il barista, e bevevo anche dietro al banco. Mm. Bevevo tanto, pesante, lavoravo tanto e bevevo tanto. E come sei guarito? In un giorno con una pasticca? No, chiaramente allora. Il discorso è questo, che c'è una pasticca che si chiama Antabuse, che tu la prendi e non ci puoi più bere, stai male. Praticamente se ci bevi tanto, vabbè, però adesso non diamo come dire consigli che poi le persone magari seguono questi consigli e ci rimangono secche. Non è questo il punto, dai, non è che puoi smettere, vero, con una pasticca, dai, sarebbe un mondo libero dagli alcolisti se fosse così, dai. Io ci sto provando e ti assicuro che questa cosa qui aiuta tantissimo, ti fa da paracadute. Se la prendi ti dura 5 giorni in corpo, hai 5 giorni per pensarci prima di bere un'altra volta. Non vai a bere a getto sicuro, perché quando sei un alcolista è dura, è giorno per giorno. Ma tu hai chiamato per questo, per dirci che si può guarire dall'alcolismo? Sì, per dire, io ho chiamato per un miliardo di cose, dovendo dire una cosa in 30 secondi, per esempio, è che tanti non sanno che con una pasticca uno da un giorno all'altro può non bere più, perché se ci bevi sopra stai male. Vabbè, ciao Andrea, Graziano, Milano, vai. Sì, anzi ciao. No, c'era Cesare, scusa, Cesare, vai. Provincia di Pesaro, Cesare. Oh, ciao. Dimmi. Io vengo in pace, volevo farvi una domanda. Vengo in pace, che vuol dire? Nel senso che sono moderato, vi ascolto, ma sono moderato. Ascolta, la domanda era: se voi foste in una foresta, vi perdete in 20 nella foresta, da una parte ci sono i cannibali, dall'altra parte ci sono i leoni, bisogna decidere dove andare, in quei 20 c'è un esploratore La democrazia vuol dire che decide la maggioranza, per me sta roba non è proprio il massimo. Non ho capito nulla, scusami Cesare, sarò ritardato, ma non ho capito, ti assicuro che non ho capito la metafora. Cosa dice allora, Parenzo? Tu l'hai capita forse? Io ho capito che lui dice sostanzialmente che non si può, che non sempre affidare ai più una scelta che può comportare un suicidio è una cosa positiva. Dipende se quella, cosa, se quella scelta è un suicidio o no, naturalmente. Ma in questo ha ragione, nel senso che tu su alcune grandi, perché se no eleggi un Parlamento che alla fine dovrebbe, come dire, studiare le questioni, i partiti, cioè, perché la democrazia è una roba complessa, adesso tanto voto. Il voto è un aspetto della democrazia. Vabbè. Non è che c'è. Ragazzi, non facciamo filosofia. Io no, ho è molto pratica la cosa. Io ad esempio, se si fosse deciso in Italia sulla la cosa di cui ci abbiamo parlato anche noi, di quel medico, quel farabutto che è stato, che ha avuto poi il processo, come si chiama il medico, quello che abbiamo, non era neanche medico peraltro, quello che abbiamo invitato tante volte, che è venuto da noi, come si chiama? Non lo so, David, non so di non cosa la somatostatina, non la vicenda del quel medico, quello lì, non era medico, quello di Torino. Ma di che stai parlando? Di cosa stai parlando? Sto parlando che se ad esempio se si sottoponesse a voto popolare l'uso di una terapia medica oppure no, diventerebbe un vero disastro, perché non è il popolo che decide. Ma cosa c'entra? Ma qui hanno deciso Stamina, scusami, il caso Stamina. Ma cosa c'entra? Ma lì non c'è niente da decidere. Vannoni? Ti ricordi Vannoni? Ma cosa c'entra? Ti ricordi Vannoni? E allora... allora se si decidesse, se venisse messo in mano al popolo. Ti stai incartando, eh? No, se venisse messo in mano al popolo di decidere se Stamina è buono o no, sarebbe un disastro. Ma cosa c'entra col fatto di uscire o no dall'Unione Europea? Cosa c'entra? Intelligente, ti stava dicendo questo, che Cesare, non è che su tutte Cesare, le cose si vota. Vai, Cesare. No, in questo caso ha ragione, Parenzo, è quello che dico io. Secondo avete scoperto la grande verità, non si vota su tutto. Bene, grazie. Diego da Roma. Zitti un attimo, Diego da Roma. Pronto? Sì. Quello della, a proposito di calpestare le formiche quando si cammina. Sì. Allora? Vabbè, io non è che sempre, cioè, però ci sto attento. Beh, vabbè, ma se sei picchiato in testa, mica è colpa mia. Io sono picchiato in testa, invece secondo me sei tu che... Se hai qualcosa in testa che non funziona, la colpa non è mia, amico mio. Se invece ce l'hai tu le cose in testa che non funzionano. Cioè, se tu stai attento quando cammini a non calpestare le formiche, vatti a fare ricoverare immediatamente. No, cioè. Sempre, però ci stanno vatti delle formiche, a fare, io ma... so dove stanno. Bene, vatti a fare ricoverare. Cioè, e io ti porto pure i regali, pensa. Ma vai a farti ricoverare, vai a farti visitare da uno bravo. Ma io ci vado, ma probabilmente ci vado per altri motivi. Ma tu vai a farti ricoverare sul serio per questa roba qua. Cioè, ti assicuro, è una cosa da farsi ricoverare. Guarda, è solo una cosa di rispetto. Cioè, ha rispetto per le formiche. Rispetto per le formiche. Tu hai rispetto per le formiche. Per tutti gli esseri viventi. Tu hai rispetto. No, lo devi dire esplicitamente. Io ho rispetto per le formiche. Certo che le rispetto. Hai rispetto per... va bene, per carità. Ma no, ma va bene tutto. Adesso sono io che dico va bene tutto. Se tu pensi di io ho rispetto per le formiche, per me va bene, per carità, va bene. Cioè, ho rispetto per le formiche. Come per tutti. Sì, cioè per te una formica è uguale a tua figlia. Hai una figlia tu? Hai una figlia? No, non ce l'ho. Una figlia. Hai una sorella? C'è una sorella, sì. Hai una sorella. Dunque, se una formica vale tua sorella, va bene tutto, va bene, se volete così, se vi piace un mondo... Ma è come, non è l'unico paragone possibile. Per esempio, stanno facendo un casino, in parte giustamente, in parte no, e secondo me no, per il festival a Yulin in Cina dei cani, no? Il festival che li mangiano. Sì, il famoso festival, quello che c'è in Cina ogni anno. La paga del cane, che è ricordo esattamente come si chiama, dal 21 al 30 di giugno, petizioni, star internazionali, giustamente gli estremisti animalisti dicono non dovete scandalizzarvi troppo, perché altrimenti dovreste scandalizzarvi per ogni cosa che avviene in Italia. C'è la sagra della porchetta, la sagra della porchetta, la sagra della pecora, la sagra di quello. Dovreste scandalizzarvi per ogni... tutte queste star internazionali che si mobilitano per la sagra del cane, chiamiamola così, a Yulin in Cina, dovrebbero fare la stessa cosa per la porchetta, la capra, chi più ne ha più ne metta, che sono in corso in tutta Italia, per esempio. Per cui non rompete i coglioni ai cinesi, avranno la loro sagra del cane, ammazzano i cani d'allevamento, fanno sto cazzo di festival a Yulin e tutte le star internazionale a fare gli appelli eccetera eccetera, fateli per altre cose pure sulla sagra della porchetta da riccia, per esempio, che vi fanno un mazzo così. Ciao Diego, ciao. Allora, mi segnalano che la tua compagna, caro David, ha scritto una roba che io non ci volevo credere quando l'ho letta. Beh, scusami, la signora Zevi, che pare che sia anche all'ascolto di questa trasmissione. Chiamala direttamente. No, ma che considero una persona intelligente, non è che la considero. Chiamala direttamente. Ma no, ma che chiamo? A parte che in macchina sta guidando. Sì, lo so che è in macchina. Signora Zevi ha scritto: si è creata un'assurda convinzione. Si è creata un'assurda. No, ma leggete, la cosa è testuale, va letta. Si è creata. No, è sbagliato. Si è creata una. Era ironica. Vabbè, era ironica. Adesso che fai un'interpretazione autentica. Diciamo che essendo convivendo lo stesso letto. Beh, lo stesso letto, adesso esageri. Lo stesso divano, vuoi dire? Lo stesso divano, lì. Divano letto, bravo. Ecco, si è aspetta. Si è creata un'assurda convinzione. Sì. Si è creata un'assurda convinzione. Ottimo. Basata sul fatto che ciò che viene deciso a maggioranza sia democrazia. Qui c'è un errore. Se lei avesse detto, avesse scritto, si è creata un'assurda convinzione basata sul fatto che ciò che viene deciso a maggioranza sia giusto. Ma niente da dire, niente da eccepire. Qualche volta le cose dice a maggioranza, diciamo, vanno nella direzione giusta. Qualche volta, sempre secondo l'opinione di chi scrive, vanno nella direzione sbagliata. Ma la democrazia è proprio questa, invece. Cioè, è il fatto che quello che è la decisione a maggioranza. Cioè, la democrazia ironica. Occidentale è la decisione a maggioranza. Ma no, chiamala. Ma adesso voglio dire, non è che siamo all'interpretazione. No, beh, guarda, è in macchina, così vediamo. Ma no, ma ragazzi, se in macchina, no, così verifichiamo. Che vuol dire l'ironia? Che vuol dire la democrazia è proprio questa. Ti do il numero 33. Ma no, ma ce l'ho il numero, non ti preoccupare. ce l'ho. Leonardo Firenze, vai. Ciao Giuseppe. Dimmi. Una domanda sulla prostituzione. Sì. Diciamo subito che queste povere figliole possono essere delle figlie, delle sorelle, delle madri, delle mogli, e che siano costrette, dalla crisi mondiale a prostituirsi, oppure vengono sfruttate. Se fosse una tua parente, è un esempio, parleresti sempre alla stessa maniera con questo libertinismo della prostituzione normale, legale? Ma cosa vuol dire questa roba qua, se fosse una mia parente? No, il degrado che porta alla prostituzione. Ma la prostituzione, ragazzi, che voi vogliate o no, cioè in tutte le forme possibili e immaginabili, per strada, più regolamentata come in Svizzera, addirittura con i cartelli, come abbiamo detto a Basilea, regolamentata in un altro modo, c'è stata. C'è e ci sarà sempre. Che ne dica Parenzo, che parla invece di cosa che si può eliminare, eccetera, eccetera, o da regolamentare, eccetera, eccetera. Ci sarà sempre. Clandestina, non clandestina, con internet, con i cellulari. E quindi che vuol dire questo? Ma niente, ci sarà sempre, come ci sarà sempre. Ma voglio eliminare lo sfruttamento. Ma sì, ma è ineliminabile pure quello, volendo, bisogna combatterlo. No, ma è ineliminabile. Come ma sì, si può ridurre, certo. Se che si può ridurre. Se tu incentivi quello sulla salaria, ad esempio. Ma nessuno cassia, incentiva sulla salaria, sulla cassia. Se tu esalti. Ma questi, guarda, miserabili che vanno lì, ad esempio, questi maiali. Ma chi è che lì? Questi maiali. Ma guarda che lo sfruttamento. Fare la pausa pranzo mangiandosi un'insalata o una bella bistecca, vanno a comprare. Guarda carne, che lo sfruttamento non carne. È lo sfruttamento non è solo quello sulla salaria. Probabilmente lo sfruttamento maggiore avviene attraverso altri canali. Non, beh, è, non è quello sulla salario o sulla cassa. Probabilmente però. Lì sulla salaria e sulla cassa ci sono anche singole battone che non sono sfruttate, che lavorano assolutamente improprio. Ti segnalo che hanno già fatto un bellissimo logo con un lampione, con una signorina e con una zanzara intorno, con scritto sotto la zanzara. Sì, lo vedo. Leonardo, è un'argomentazione abbastanza ridicola questa cosa qua della... Giuseppe, è ridicola, però bisognerebbe pensare alle famiglie che ci sono dietro e anche chi si rovina suo malgrado dovendo fare una cosa e magari molto non bello. Fare. E beh, che vuol dire si rovina? Ma ragazzi, cioè, oggi ci sono persone che si prostituiscono via internet e guadagnano 10.000 euro al mese. Cioè, ragazze che sfruttano la propria bellezza vendendo il proprio corpo e guadagnano 10.000 euro al mese. Certo. E che bisogna fare? È così, c'è poco da fare. È così. Forse c'è l'appetito sessuale. Ma ho capito, normale. Leonardo, sei mai andato a puttane tu, Leonardo? No. Non sei mai andato a puttane. Ma non perché fortunatamente? Che ne sai? Potresti scoprire un mondo che non conosci, potresti scoprire un mondo meraviglioso. E ti paghi per fare sesso, è triste. Dai, ma non lo so se è triste, io le poche volte che ci sono andato, poche, perché anche a me non piace parlare, mi sono divertito, che ti devo dire? Cioè, è vero che dopo un quarto d'ora mi ero già rotto i coglioni, però comunque mi sono divertito. E se parliamo con il nostro, come si chiama il tizio, il nostro karma quotidiano, quello va ogni sabato a Nova Gorica, è andato dappertutto. Vabbè, ma quello è patologico, però quello è un maiale. È patologico, che vuol dire un maiale? Non ho capito. È un patologico, dai. Ma è patologico. Una malattia anche quella, andare tutte le, cioè, come quelli che bevono tanto, è una patologia, è una malattia. Ma che vuol dire una palatina? Se quello ogni settimana, magari non è malato, magari è normale. Cioè, ma non magari... lo so, io lo rispetto moltissimo. Io sto parlando semplicemente di quelli che cioè io non sono a favore dei bordelli. E allora? Cioè... Beh, ho detto che ci sono delle ragazze sfruttate. Ma me lo dice una cosa abbastanza scontata. E beh, allora se è scontato dovresti convenire con me che tutti questi maiali che anziché stare a casa con le loro famiglie o anche semplicemente a guardarsi un bel film su Sky, sulla 7, su Netflix, dove vuoi. Hanno voglia invece di andare a scopare con una puttana invece di guardare un film su Sky. Potranno o no? Non c'è libertà. Che compra della carne. Oh, Dio, compra della carne. Che compra della carne. Vabbè, compra certo. Carne. Anche quelli che non sfruttano, però, comprano della carne. Uguale, sì, compri sempre della carne, no? Questi che comprano della carne sono dei miserabili. Va bene, d'accordo. Hai detto la tua frase. Perché a differenza dei bordelli svizzeri che tu hai tante volte raccontato. No, ho raccontato tante volte. Non e di cui hai decantato le lodi. No, lì, no. Evidentemente, c'è sono condizioni igienico-sanitarie e soprattutto c'è la volontà di queste di vendere il proprio corpo. Quindi va benissimo. Va bene per loro. Cioè, per me no. Claudio, provincia di Brescia. Ciao, Leonardo, grazie. Una volta prova nella vita, no? Quanti anni hai, Leonardo? Niente, Claudio, Brescia, provincia ciao. Di Brescia. Ciao Claudio, dimmi. Potrei iniziare dicendo viva la gnocca, abito a Lugano, abito un po' a Lugano, poi in provincia di Brescia. 55 anni a Lugano, mignotta, non ci sono mai andato, però ho fatto il famoso Putan Tour, si chiama così. Vabbè. Girando i 3-4 locali di Lugano, una sera con degli amici ben pensanti. Non ci credo comunque al fatto che pagano solo l'affitto a Lugano. Comunque non era di questo che volevo parlare. Volevo chiedere a voi due... professori. Non siamo cosa professori. Cosa ne pensate della passerella di Cristo? Per me è una cosa strepitosa. Io ho sempre detto una cosa fantastica. Poi gestita male. Ah, molto bello. Lo trovo una cosa strepitosa. Geniale. Strepitosa. Geniale. Geniale. Sì. Lo trovo una cosa geniale. Poter passeggiare in mezzo. Poter passare in mezzo. Passeggiare in mezzo a un lago mi sembra una cosa bellissima. Cioè una cosa straordinaria. Allora, io ci sono stato ieri sera. Io sul lago di Seo ci ho abitato quasi 50 anni. Devo dire la verità, come ha detto il grande professor Sgarbi, al quale va un elogio, in Val Camonica, come sul lago di Seo o nelle vicinanze, ci sono posti bellissimi. Vabbè, ma quello è un altro discorso, che ci sono posti belli anche sconosciuti in Italia, certo, come diceva Sgarbi, d'accordo. Lago di Trasimeno, ma che vuol dire? Ma non capisco perché, qual è però la critica? Caro Cruciani o caro Parenzo, mi spiegate la genialità dove sta? Ma come che dove sta la gente? Tu ci hai pensato? Ci hai pensato per esempio a fare questa roba qua? Ci hai pensato o no? Ci hai mai pensato di poter attraversare? Allora, hai mai pensato di come tante hai altre. Mai pensato su una zattera e attraversa il lago? Hai mai pensato? Hai mai pensato di passeggiare sul lago? Ci hai mai pensato prima o no? Come tutte le cose che sembrano scontate, no? Ci hai mai pensato o no? Non ci hai pensato? No, non ci ho mai pensato. Esatto, basta questo per definire. Ma non vedo una grande genialità. Ma basta questo, le cose geniali non devono essere... Giustamente, come dici tu, Parenzo, gestita da cani. Ma quello è un altro discorso, perché come al solito non sappiamo gestire le cose belle. Però devo dirti la verità, le cose che sembrano le più normali, in realtà sono geniali, cioè per il solo fatto che tu dici cazzo, però si poteva come pensare la ruota, ma dici cazzo facile la ruota, sì inventala tu, però intanto l'hai inventato un altro la ruota, il signor Cristo ha inventato una roba, si è inventato una roba che ha un suo, cioè che magari è scontata, no? Una passerella che attraversa un lago, no? Sembra una park, cioè, che è diventata una roba di attrazione turistica, intanto ha portato un sacco di quattrini, un sacco di gente in posti dove che erano sconosciuti prima. Rosario, Roma, vai. Stasera voglio dare grande spazio agli ascoltatori, ragazzi. Quindi chiamate. Ottimo, ci sono d'accordo su questo. Allora, riguardo agli animali, io voglio dire una cosa, è una cosa risaputa, anche Conrad Lorenz lo faceva, io ho fatto degli esperimenti con gli animali e io le zanzare per esempio non le uccido, cioè le catturo. Cioè io quando sto in casa, se ci sono delle zanzare, prendo un bicchiere di carta, la catturo, diciamo l'aspetto che si poggia sul muro, la prendo, ci metto un foglio di carta sotto, la isolo dal muro, e poi la metto in un bicchiere. Poi le altre faccio col sistema di due bicchieri, uno sopra, uno sotto, e così io ho liberato anche 15-20 zanzare. Ma perché dico questo? Io riesco a giocare anche con le mosche. Cioè le mosche sono stupende. Cioè, ma io non ho capito, è un gioco oppure perché non le vuoi uccidere? No, proprio perché diciamo sono consapevole che percepiscono l'amore, cioè nella persona. Voglio dire, è una cosa. Non ho capito. La zanzara percepisce l'amore, non ho capito. Sì, percepisce quasi una sorta di spirito compassionevole che uno ha verso questo animale e lo provano. È un po' come quegli uccelli che si mettono la bocca dell'alligatore e non verranno mangiati. Ma se sei convinto di questo, io ti lascio convinto delle tue cose. Cioè, se tu non uccidi le zanzare, le catturi col bicchiere, eccetera, hai tempo da perdere con le zanzare. No, io quando ne vedo una, voglio che scappi. Che e la sacralità della vita anche negli animali. Anche là? Cioè, la sacralità della vita è anche negli animali. Amico mio, ma se tu pensi che la sacralità della vita sia nella zanzara, nella mosca, va bene, per carità, va bene tutto, va bene tutto, la formica, la zanzara, la mosca, per carità, io non è che ammazzo per forza le mosche o le zanzare così che vedo da lontano una zanzara. Se uno si avvicina, però, si avvicina a me, la cerco sono di ammazzarla. Sono degli animali fantastici. Ma che ci fai una volta che tu le... poi le liberi così? È bellissimo, cioè ti senti... Io devo dire che quando fai del bene in questo modo alla zanzara... che invece di ucciderla tu praticamente la prendi, no, e scusa, poi fai... non puoi condividere niente, io accetto tutto e va bene. Se mi dici va bene. Che bisogna condividere le zanzare, noi... ma guardate che Einstein diceva che noi utilizziamo il nostro potere della mente per il 10%. Sì, se noi andiamo verso la ricerca anche in logica o in razionale, ci sono tante scoperte che si possono fare, io vabbè. Vi saluto e vi ringrazio. No, di cuore. Ma io ringrazio di cuore. Io ringrazio te per questo spaccato di mondo surreale. Bisogna chiamare qualche medico, però sicuramente verrà da solo. Il medico Luigi da Catania. Vai, Luigi. Luigi. Cruciale. Dimmi. Ma che dimmi? Ma se tu non ti rendi conto che sei un coglione? No, non mi rendo conto. No, tu non ti rendi conto. Secondo me lo sanno. Ecco, ecco uno dei primi cretini. Ecco uno dei primi cretini che arriva. Vai. Mi fai parlare? Vai che mi diverto. Vai che mi diverto. Di chiudere tu, chiudo io il telefono, stronzo. Ma chiudi? Hai chiamato te. Allora, perché si arrabbia? Io non capisco. Ma tu, hanno fatto un esame perché proprio deve essere uno stronzo, una merda. Perché poi sei anche un ignorante pazzo. Quando una cosa tu non la sai. Ma no, di cosa stai parlando? Ma che c'entra? Perché sei una capra ignorante. Mi dispiace che c'è una persona vicino a te che è una persona intelligente. Ma di cosa stai parlando nel concreto? Di che parli? Ma nel concreto ti voglio dire che tu sei un pezzo di merda. Ma perché dici questo? Aspetta, ma perché lo dici? Tutto in generale. Le puttane, ma perché non lo fai fare a tua figlia fra 2-3 anni la puttana, stronzo? Ti sei sfogato? Ti sei sfogato? Ma che tua figlia fa la puttana, che dici una cosa onorevole, una ragazza che fa la ti puttana. Ti sei sfogato? Hai detto tu che hai emancipato, dacci a tua figlia, figlia mia, fai la puttana. Perché secondo me questo... A parte che non ho detto che uno si emancipa facendo la puttana. Tu l'hai detto perché io le ho registrate. È emancipazione quando c'è la prostituzione. Ma che hai registrato? Che sei? La Digos? Sì. Che sei? Sì, no, le ho sentite e le ho registrate. Ma hai detto delle cose, siccome spari troppe cazzate, le dimentichi. Perché dici sembra una cosa... Luigi, stai calmo, mi aspetti un secondo, Luigi? Non ti sei sfogato abbastanza? Ti aspetto un secondo. Ragazzi, ma che mondo sarebbe senza Parenzo? Parenzo, noi ti amiamo. La Zanzara. Luigi, è finito lo sfogo oppure vuoi continuare, Luigi? No, a te interessa che uno continua, capito? A te interessa... Non lo so, dimmi, mi hai detto pezzo di merda, eccetera, eccetera. Ma questo lo sai, non è che ci ho detto... Ma forse sai una che cosa... Cos'è che dovrei sapere che sono un pezzo di merda? Non ho capito. Io sai una cosa, dimmi. Come cazzo ti chiami. Io rifiuto di pensare che ci possa essere una persona così. Secondo me tu sai il personaggio, che se tu più stronzate dici e più attira attenzione, perché in fondo è un business questo qua, no? Infatti, no, un business, dicono, perché un business? Un business. Un business te lo fitti nel culo, io dico come cazzo voglio io, che è business, non business, stronzo. Allora, detto questo, c'è lì vicino a te il signor Parenzo, il quale è una cultura. Io non capisco come può stare vicino a te, a volte si appiattisce. Io ho visto si appiattisce, tempo, in basso, si mette, ma è basso già, ma è basso, è già basso però. È già basso, dunque non si può appiattire più di quello che... Non lascia stare, coglione, io, guarda, io dimmi, dopo che finisco questa telefonata, è anni che seguo sto cazzo di Zanzara, e dopo che finisco questa telefonata non la seguo più, guardo, ci sento altre cose più interessanti. Sì, certo. Detto questo, invito Parenzo. Inviti Parenzo, sei andato un attimo in bagno, Davide, è andato un attimo in bagno. Ad essere più Parenzo, nel senso che molto spesso si appartisce dietro le tue merdate. Perché sì, ma è un attimo in bagno, è andato in bagno un attimo. È andato un attimo in bagno. Io sto parlando di merda. No, ma è andato in bagno, Davide, dunque non ti può ascoltare. Non, anche non se gli dici che si appiattisce, è andato un attimo in bagno, scusalo. Gli scappava la pipì. Ma dico, io infatti stavo dicendo che io rifiuto di pensare che tu possa, che una persona. Ma tu la fai nel lavandino ogni tanto? Io nel lavandino la faccio ogni tanto, qual è il problema? No, ma per sapere, così, un'informazione. Ma queste cose, farle nel lavandino, farle mentre fai la doccia. Sotto la doccia, la fai o no? Sotto, cioè, ma assolutamente sì, queste sono delle bene, cose. Bene, ma vedi che hai delle cose positive, hai delle cose positive. Ma queste sono delle cose normalissime. No, ma hai delle cose positive anche tu, vedi, hai delle cose positive anche tu. No, non è normale, quando tu mandi il messaggio che quale fare messaggio? La prostituta, il fare essere prostituta. Ah, a proposito, Luigi, a proposito, a proposito di prostituzione, c'è un messaggio che ho ricevuto da un ascoltatore che mi dice: Cruciani, mi dispiace, ma ti devo smontare un mito. Susanna della Salari è simpaticissima, romanaccia come ci piace a noi, spontanea e genuina, ma fisicamente parlando lascia a desiderare. C'ha due cosce che sembra Maradona e la cellulite che trasuda da ogni dove. Se dovessi andare, ci sono certe fiche, credo, dell'est da sturbo. Per girarti e guardare, rischi seriamente di fare un incidente. Fidati e chiedi agli ascoltatori. Vedrai cosa ti dicono. Cioè, questo qua getta merda sulla nostra Susanna, dicendo che ci sono altri pezzi di figa dell'est, sicuramente sulla zona, sulla Salaria, meglio di Susanna. Ma a me che mi frega di quello che c'è sulla Salaria, caro amico mio. È un'informazione di servizio. Luigi, prego, proprio su. Sono poveri Cristo, sono povere ragazze che fanno sto lavoro perché non hanno niente di meglio, perché sono sfruttate, perché per la disperazione, la fame. Io posso capire una donna italiana che decide a un certo punto di fare quello, ma anche quello non lo decide perché ha piacere di scopare con una merda, con la faccia di minchia che c'hai tu. Lo fanno per i soldi. Ma chi? Questa cosa. Chi dice? Chiunque fa la prostituta, chiunque lo fa per i soldi. La tua faccia, ma certo, la tua faccia com'è invece? Io ho visto in televisione. Ma la tua com'è? La tua com'è? La mia non ha così, niente così, da dire, così, così, la così, mia così, è così, così, ha così, la faccia così. Di minchia, tutta butterata, non so che cazzo che è tutto così, così. Ma bello, che motorino è quello che è passato lì accanto? Che motorino è quello che è passato lì? Il motorino che c'è nella figa di tua sorella, è uscito da lì quel motorino. Ma che motorino è passato lì? È interessante. Ma che motorino, ma che cazzo te? Ma sei imbecille? No, ma ho sentito un motorino, è interessante. E che conoscendo il motorino, coglione. Ma no, ma ho sentito il motorino dietro di te, sentito un motorino che passava. Era interessante allora sapere che tipo di moto era. Ti posso dire una cosa, ma hai rotto il cazzo, ti saluto e vai a fare ancora Luigi, scusa. Luigi. No, voglio chiudere, siccome ti chiudi in faccia il telefono stronzo sempre alle persone, quando sei in difficoltà, o perché non sai il discorso, perché sei un Luigi, ma sei sposato? Sì. Sei sposato o no? Sì, con tua sorella ogni tanto c'è da scopare, allora? No, ma mia sorella sarebbe contenta, per carità, cioè di andare con uno come te sarebbe contentissima, figurati. E allora? È sempre stata con persone brutte, figurati, tu sei bellissimo, sicuramente sei sicuramente meglio di tutti gli uomini che ha avuto. Ma quanto sei bestia. Allora, per cui non è un problema. Ora, siccome sono catanese, ti parlo un po' catanese. Parlami catanese, che mi piace, allora, sì, parlami catanese. Tu sì, figli su caninghi, un uno del sbiro, un pezzo di merda, con l'aria da motto buttana, un gabinetto, un gesso, un buppo, gli arusso, depravato, cesso. Ah, un pupo, dunque ce l'hai anche con i gay in tutto questo? Un pupo, pupo significa gay, per chi non lo sapesse. Pupo significa gay. Ah, allora ce l'hai con i gay? E beh, sì, dici. E beh, come no? Dici pupo, Iarruso, pupo, Iarruso. Sì, Iarruso è un'altra cosa. E perché dici pupo? Perché dici pupo? Perché non capisci quando si dice una parola. No, Iarruso lo so benissimo, ma pupo che significa? No, ma parla in catanese, che mi piace. Parla in catanese. A Catania, quando una femmina, una carusa, aspetta, sai chi vuol dire esperta? Come no, certo, che la so. È una capace dice, sì. Ma chi? Capace, esperta, da parola esperta, esperta. No, esperta. No, esperta, aspetta, sei intelligente. Intelligente, arguta. Certo, arguta, sì. Come te. Quando una femmina era così, diceva minchia, ma chi è una buttana? Una buttana non è che fa la prostituta, una buttana che è capace, cioè quindi quando io dico pupo in quel termine, non voglio dire, non voglio offendere i gay, perché io i gay... Puppo, hai detto puppo, scusa. Puppo, ma sì, un puppo, sì, un puppo. Ma sì, puppo. Luigi, ma sì, puppo, sì, puppo o no? Ma sì, puppo o no? Cesso, mi fa parlare? Ma sì, puppo o no? Ma tu mi abbiamo scelto che si deve parlare o è per un telefono? Vai, vai, parla, vai. Si fa parlare su camin di tuo suolo o è per un telefono? Che vuol dire su camin di tua sorella, la traduzione, eh? Esatto, su camin di tuo suolo, capisci? Tu sai. Allora, noi a Catania, sì, il sindaco Mattia, abbiamo una munizia, ci vediamo un pacco, ci vediamo cosa su, abbiamo una munizia. Nella mondezza, li buttiamo nella mondezza. Noi stavamo in equipe indifferenziata, in quella indifferenziata, questo si capisce. Tu a Catania, se fosse un sacchetto della munizia, è stato, non si mettono a mettere i cani. Questo è brutto però, perché... Tu sì. Ma questo è brutto, questo è brutto, questo è brutto. Ma se ti mangiassero a piedi, chi si fa più schifo per mangiare, mangi i cani per mangiare. I cani, no, nemmeno i cani ti mangiano, sì, nemmeno i cani ti mangiano. Manco i cani, che è la stessa cosa che ha detto Alessandro Gassman. La stessa cosa che ha detto Alessandro Gassman a Salvini. Questo spacchio di questo. Io traduco, sì. Ti mettono dopo, perché fai, secondo me, pubblicità, chi do che è? Chi do che è? Quello che è, sì. È sbagliata, sbagliatissima. Tu dai messaggi di merda, come se tu, merda se tu, i messaggi tu con Mattia, cesso. Cesso sei tu, e cesso, e i messaggi che dai sono altrettanto. Sto facendo la giusta traduzione, Luigi, a quello che stai dicendo, no? Ora io, siccome non andiamo a minchia a parlare con te, perché se siccome mi sono rotti i coglioni a parlare, esatto, questa è la traduzione. Io. Siccome già un'unghia la minchia a parlare con te, che mi unciai, bella questa, com'è che si dice unciai la minchia? Mi sono unciato la minchia. Mi unghiavo la minchia, mi unghiavo, perché se invece in mezzo, io ti dico Mattia, chiudici secondo le conferenze, non ce ne rogno. 10 secondi, 10 minuti. Io ti saluto. E fatela mettere in dopo uno. E fatela. E figli che ti mettono gioco. Allora te la prendi. Attenzione, te la prendi col signor Boccia. Allora, signor Boccia, attenzione. Ma faccio quelle Boccia, non Boccia. Io non lo so. Questo non si fa. Questo non si fa. Questo non si fa. Questo non si fa. Per fare quattro soldi. Per fare quattro soldi. Traduzione, spagna. Metto un cesso come Mattia. Metto un cesso come te. Ok, e saluto a Parenzo, cioè, Parenzo è ancora in bagno, purtroppo, ma gli dici di affrettarsi un attimo, dici di fare un po' più fretta. Sente, guarda, mi unghia la minchia a fare così, saluto e fatela mettere un dopo in mezzo. Fatela mettere dietro, dunque ce l'hai con i puppi, i puppi non ce l'hai. E allora perché uno, perché mica farsi... Io adoro i gay. Ma farsela mettere dietro non è un non è una cosa brutta, allora, se c'è... Ma tu fai lo vedi, allora è una brutta... Hai una brutta considerazione. Hai una brutta considerazione dei puppi. Attenzione. Adelchi, provincia di Brescia. Adelchi. Vai. Ciao Cruciani. Ascolta, volevo dire a proposito degli animalisti e dei vegani non vegani. Allora, premesso che io non mangio carne da un anno e mezzo e sto da Dio. Sì. Ma è così difficile immedesimarsi in un agnello, in un vitello che viene torturato prima di essere ucciso per capire perché non bisogna farlo? Ma se noi uomini un domani vengono degli esseri da Marte più grossi che ci danno la caccia, ci prendono, ci mettono nelle gabbie poco più grandi di noi, ci fanno passare la vita lì e poi ci sgozzano, non riusciamo a capire che cosa vuol dire? Non ho capito, scusami. Spiegati meglio. Spiegati. Cioè, per smettere di mangiare gli animali, basterebbe per un attimo immedesimarsi in loro e pensare che un domani ci fossero degli esseri giganteschi che vengono da Giove, ci prendono, siamo buoni, quindi ci catturano, ci mettono nelle stalle, nelle gabbie piccolissime. Dunque tu pensi a questo, cioè all'arrivo di esseri giganti come nei film di fantascienza che possono schiacciarci, che possono ucciderci, eccetera. E dunque solo per questo rispetti gli animali. Per immedesimarsi, per provare. Ma tu sei uno di quelli che quando cammina sta attento alle formiche e agli insetti? Non è che sto proprio attento, però se sto camminando e vedo un ammasso di formiche che stanno lì, le evito, le salto. Non le schiaccio. Allora, io dico, una rana, quando prendi una rana e le tagli una zampa, ma che è? Un pezzo di gomma? Ma perché devo tagliare una zampa alla rana? Beh, quelli che le mangio, quelli che nei bar, nei ristoranti entrano e dicono, le rane, voglio quell'astice e lo buttano vivo nella pentola bollente. Ma come si fa? Ma è da trogloditi. Ma non è da trogloditi, è da persone che vogliono mangiare cose buone, fresche, certo, fresche, genuine, fresche, certo, fresche, roba viva, bollente, nell'olio bollente. Non lo so come si cucina, non ha importanza, viva, morta, è importante che sia cucinata nel modo migliore. Beh, fantastico. Quindi se un domani, ipoteticamente, esistessero un enorme astice, diciamo, da Giove, che vengono sulla Terra, scoprono che l'uovo è buono, mi possono prendere, buttare vivo e mangiare. Sì, io sono contento che tu fai questi pensieri. È per immedesimarsi, per capire che io un animale soffre come me. Sì, soffre come te, non c'è dubbio. Dunque, hai una figlia? No. Hai un fratello? No. Non è un fratello, una madre. Non mi venire a dire, è una madre, un padre. No, io vivo solissimo, ma è evidente che un figlio vale più. Se non sono è evidente, se la pensi così, devi essere coerente fino in fondo, amico mio. Può sfuggire a questa regola. Cioè, se pensi che gli animali soffrono come può soffrire tua madre, la vita di tua madre o di tuo padre vale quella di un insetto. Devi essere coerente fino in fondo. La mia di sicuro. La tua vale come quella della formica. Ma assolutamente. Amico mio, fatte ricordare. Io sarò più intelligente, ma è Hitler che diceva che chi è più intelligente deve vivere e chi è più scemo deve morire. Era lui che faceva la selezione della razza. Fatti ricoverare. Siete goduria. La zanzara. Bagno minimale in un ambulatorio sanitario. C'erano delle gocce gialle nel lavandino piccolo e mi sono detta, anche qui sono venuti i crucianiani. Cruciani, devi smetterla di insegnare alla gente a fare le cose schifose. Allora, intanto è tornato Parenzo, che alle 20:30 se ne va perché ha la prima puntata la seconda puntata di In Onda. E nei giorni scorsi c'è un signore che si chiama Saidawi Hamid, quello che ha detto che Roma è già musulmana, che è il capo di una comunità islamica abbastanza radicale che si chiama Tabligh e Dawa, radicale, cosiddetta radicale. Io cercherei un attimo di pizzicarlo, questo signore, perché ha detto pure delle cose, che quando uno va a fare la pipì deve prendere il pene con la mano, che non si deve prendere con la mano destra, tra le altre cose. Io cercherei di pizzicarlo telefonicamente, questo signore, perché gli voglio chiedere alcune cose su il sesso e l'Islam. Sì. Signora Hamid? Sì. Salve, buonasera, mi chiamo Cruciani. Buonasera. Senta, io ho letto che lei dice che abbiamo già conquistato Roma, che significa? Chi t'ha detto questa parola? Ho letto da qualche parte. Qualcuno ha scritto, io non ho detto questa cosa. Ma che vuoi dire conquistare Roma? Non siamo venuti per conquistare, stiamo vivendo dentro nostro paese. Ma lei segue più l'Islam? L'Islam è superiore alla legge italiana? Non è che è superiore all'Islam. L'Islam è una legge di Allah. E allora? Se noi seguiamo la legge di Allah, diventa una legge anche per il mondo, per tutto questo mondo. Ma per esempio tu la vorresti la poligamia? La poligamia non è come abbiamo capito noi. Non si può, perché non abbiamo la capacità a comportare con una donna. Come possiamo pensare a fare più con una donna? Sì, vabbè, questo d'accordo, ma tu la vorresti la poligamia, cioè come... Ma non posso comportarmi con più di una donna. La legge islamica dà la possibilità che puoi sposare più di una donna. Sì. Ma non è come ti piace a te. O per il comodità tua. No, ci stanno delle leggi. Eh beh, ho capito. Per esempio, la tua donna, sì, se ha avuto una malattia, allora questa malattia rimane a vita. Che fai? La butti questa donna per di un'altra? O vai a tradirla con un'altra? No, devi sposare un'altra donna che prende cura di te, di tuoi figli e dell'altra donna. Sì, no, per queste esiste sposare un figlio di una donna. Sì, no, ma questo ho capito, ma non è male, però, sarebbe comodo, diciamo, no? Sarebbe comodo per tutti quanti. Sarebbe, beh, per tutti. Perché una donna, sì, una donna senza marito, che va a fa? Eh beh, certo, che questo. Una donna senza marito, esistono donne senza marito pure, amico mio, nel mondo c'è. Ma ci stanno quelle donne senza marito, ma hanno dei problemi di vivere, eh? Perché dici hanno problemi di vivere? No, le donne? Vivere. Ma per tutto quanto, perché la donna deve essere affiancata, servita da un maschio. Prima il padre, il secondo il fratello, il terzo il marito e il quarto il figlio. Per l'arco della sua vita, vuoi dire, questi uomini quattro hanno bisogno di una donna. Ho capito, ma esistono degli uomini single e donne single anche nel mondo in Italia. Hanno tutti problemi. Tu dici hanno problemi, però, queste persone. Sì, ma sicuramente avranno problemi. Beh, insomma, io non posso vivere senza quel povero. Sono umano, allora questa ma è la vita il mia. Tradimento esiste, cioè è contemplato il tradimento, l'adulterio. Che succede se la tua donna ti tradisce? Tu che fai? Sì, mia donna mi tradisce, c'è due via. O se firma da tradirmi, o va a casa del suo padre. Vuoi dire il divorzio? Vuoi dire il giudice? Vabbè, ma si può anche perdonare il tradimento, però. Sì, ma sto dicendo. Sì, tu hai visto la tua donna che si tradisce, te, sì, devi vedere con te quattro altre persone. Sì, queste quattro altre persone non vengano e non dicano che noi abbiamo visto testimoni di questo tradimento, tu prendi 80 frustate. Questo è l'Islam. Questa è la legge dell'Islam. Allora, io ti dico, sì, trovo mia donna che mi tradisce, c'ha due via. Due via. Oh, ferma di tradirmi e cerca il perdono e andiamo avanti. Sì, lo trovo, però la seconda volta c'ha solamente l'altra via, il giudice e il divorzio. E il divorzio. E le frustate no, eh? Ma gli animali non si frustano adesso. Come gli animali, che sono come animali? Gli animali, scusa. Io sto dicendo, gli animali non si frustano adesso. Non si frusta nessuno. Ah, non si frusta nessuno in quel senso là. Però scusami, ma la donna tu come la consideri? Un po' al servizio dell'uomo, un po', no? È l'uomo che è al servizio della donna. Beh, insomma, adesso non esageriamo, amico mio. No, è così, bello mio. Sto dicendo che la donna all'arco della sua vita viene affiancata da un uomo. Poi servita da un uomo. Sì. Non può rimanere da sola. Ma non può, scusa, ma non può. Ha detto che non può, basta, non può. Ma scusami, caro amico, ma c'è una cosa che mi ha colpito nel tuo racconto che hai fatto, è questo. Ma possibile mai che l'uomo non può toccare il suo organo sessuale con la mano destra? Non ho capito bene questa cosa. Com'è con la mano destra, perché la polizia si fa con la mano sinistra. Allora il bisogno, le tocchi con la mano sinistra, no, con la mano destra. La mano destra si usa per le cose pulite. E la masturbazione? Come si fa? La masturbazione, non facciamo la masturbazione. Allora, te lo dico, bello mio, tu non stai venendo a chiedermi le cose che vuoi. No! Vuoi scherzando? No, assolutamente. Non sto scherzando. Vai. No, Amid, siamo seri, non sto scherzando. Non sei serio. Ma non sto scherzando, non sto scherzando. E tu rispettato. Allora, se vuoi scherzare su di me... Non sto scherzando, te lo assicuro, non sto scherzando, no, assolutamente. Questo tono da uno. Te lo giuro, ti posso chiedere qualcosa sull'Islam e il sesso? Te lo posso chiedere, domanda, punto interrogativo. No. Che cos'è che si può fare tra uomo e donna nell'Islam? Cioè, questo è curioso, cioè, è da capire. No, l'uomo è la sua donna, no, l'uomo è la donna. La sua donna, bello sì. Bello mio. Vabbè, ma si possono... Stai scherzando. No, non sto scherzando. Si parli dell'Islam, deve essere educato. Ma sono educato. Sapiente. Non sei educato. Ma come no? Ma come non sono educato? No. Bello, bello mio. Vabbè. Stai toccando delle cose che si chiamano limiti. Se tu stai parlando come una persona, allora c'hai dei limiti a parlare. Aspetta. Allora, adesso hai toccato dei limiti. Sì. Allora ti dico grazie. No, aspetta, Amid, un attimo solo, Amid. Cazzo, dai, richiamiamo. Parla tu, Parenzo, parla tu. Sì, sono Parenzo, scusami. Scusa il mio collega Cruciani, non voleva No, veramente, io volevo sapere questa persona chi è. No, aspetta, io sono Parenzo. Tanto, salam aleikum. Allora, no, per rimettere un po' di tranquillità, perché il mio collega è molto appassionato di questi temi, capito? No, non è appassionato, quello è un scherzoso. Non è scherzoso, lui è un... Io posso denunciarlo. Non è scherzoso, lui è un maiato. Lui è un amante delle donne. Mi sta toccando le nerve. Le nerve. No, io sono una persona per bene, amo questo paese, amo gli italiani, ma non amo come questo qua, che comincia a scherzarci sull'anima mia. Ma che denuncio, fratello mio? Aspetta, Cruciani è un collega molto bravo, è una persona un po' particolare però, perché lui è uno che ama tante donne, quindi è fissato con il sesso lui. Solo per questo, è libero allora si diventa musulmano c'ha qua poco per sposare una quarta donna. Lui, ecco, questo infatti secondo me è un'ottima idea, infatti glielo voglio poi dire, adesso poi lo chiamo tra due minuti, perché questa può essere... Ascoltami, fratello, volevo chiedermi questo, come si rapporta l'Islam all'omosessualità, ve lo puoi spiegare? No, non posso spiegare questa cosa, perché voi normalmente non trattate le cose rispettando le altre, non è domanda. Allora, ma ti chiedo un'altra cosa. Tu devi sapere che Cruciani non si lava mai. Cruciani, questo, quello. No, non è possibile. Un umano deve fare la doccia. Fa parte dell'umano. Anche l'animale si pulisce. Non credo. Adesso poi te lo passo. Scusami, fratello, perdonami. Chiedigli scusa. Ti chiedo scusa, ufficialmente Tu non ti lavi, fai schifo, l'ha detto anche la mia Non è possibile, dai, non ci credo. Amid, amico mio, mi lavo un paio di volte, ti faccio la doccia un paio di volte a settimana, che ti devo fare? No, però, ma l'Islam come li consideri i gay? Queste è anormali, ma sono problemi loro. Cioè, se un uomo sta con un uomo, tu come li consideri questi qua, questa situazione? Il problema non deve essere all'aperto queste cose, non deve essere una cosa dichiarata davanti a tutte. Questo è il male. Devono restare. Gli animali non fanno l'amore davanti agli altri. Gli animali, come noi vogliamo fare l'amore all'autobus, alla metropolitana, ma... Vabbè, che c'entra? Quello non si può fare. No, c'entra, bello mio, c'entra. Quello non si può fare, non si può fare. Non si può fare, ma perché si fa? Ma non si fa, non è che c'è gente... Si fa, bello mio, ma scusa, se tuo figlio... Ma si fa queste cose? Ma non si fa, ma ci sono... Scusa, le donne come devono andare in giro? Un po' più coperte, sono troppo scoperte le donne? Vanno in giro... Ognuno, io c'ho da coprire con l'occhio mio, c'ha il velo che si può coprire. Se qualcuno è coperto o non è coperto, cavolo, il problema è suo, non è il problema mio. Ho capito, ma io c'ho il velo mio, lo chiudo e buonanotte. Come il velo? Che c'ha il velo tu? L'occhio mio ma è bello vedere una bella ragazza, no? No, perché? Per me no, è un peccato. Ah, è un peccato vedere una bella ragazza? Sì. Una bella ragazza che si vedono un po' di che si vede un po' di seno che sta per uscire fuori. Allora, un costume in spiaggia, ecco, un costume bello. Ti dico un'altra cosa. Dimmi. Ciao, arrivederci. No, perché? J Giada Roma, vai Giada Roma, cazzo, questi qua abbassano il telefono subito, maledetti, buttano giù quando si chiedono le cose serie. Giada, vai. Non è modo. Buonasera a tutti. Dimmi cara, dimmi. Volevo intervenire relativamente al tema della prostituzione. Dimmi, dai. Sono favorevole, perché credo che sia giusto comunque avere uno spazio tutelato in cui una donna può essere libera di fare quello che vuole col suo corpo, visto che comunque il corpo è il suo. Che vuol dire uno spazio tutelato, scusami? Riaprendo per esempio le case chiuse potrebbe esserci un servizio di assistenza sanitaria, psicologica. Ma lo so, mantenere... ma non tira aria in Italia da questo punto di vista. Ma in Italia non tirerà mai aria. No, per mille motivi, non tira, l'aria non va verso il verso giusto purtroppo. Però per paradosso nel 600 a Roma erano censite più di 8.000 prostitute. Lo so, ma nel 600 c'erano degli aspetti più civili evidentemente, che ti devo dire? E nel 600 c'era il Papa. Sì, ma che ti devo dire, Giada? A un certo punto da noi è arrivata questa mannaia della Merlin, eccetera, e ormai tutto è perduto. Si potrebbe fare tranquillamente una raccolta firme. Magari ma sì, ma già si è fatta, ma non porta a nulla. Ma in Italia non si fa mai niente da questo punto di vista. Conviene a tutti avere questa situazione che non è controllata. Ciao, ciao. Conviene a tutti. Ciao. Siamo al top! Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da Helios Patient Portal, è il portale paziente della sanità. Vai su helios24.it. La Zanzara. Luca Telese con noi, evviva Luca! Peppino! Eccoci no, qua. Mi fa arrabbiare. Cosa Peppino? È una cosa orrenda. Solo Mughini e mi fa ridere. Mi chiama Peppino. Sì, mi chiama Peppino. Io resisto. Non dire Peppino. E ti accolgo così con la rubrica Il peggio di Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guardavano servi di Roma fuori Barin senza dubbi né ripensamenti Padania 44 bella. Giovani migranti che da almeno 6 mesi che non scopano. Ditemi che non è vero, mi viene da vomitare. Non è possibile che questi ciabattanti stiano aspettando le donnine puttane, praticamente aspettano puttane per scopare, ok? Padania, fai vedere quanto è bella la tua terra. 44 ciabattanti ospiti al centro di accoglienza di Vipiteno che cercano le donnine da scopare. Ma dai, cercano donne possibilmente giovani e di lingua tedesca per soddisfarli. Senza dubbi né ripensamenti. 44 migranti che vogliono scopare, Avanti. Allora, Varin, dà per certa una notizia che è ancora tutta da confermare. Cercasi donne per soddisfare le voglie sessuali di 44 migranti. E si scatena. Interviene a un certo punto un ascoltatore presunto islamico. Volevo dirti, perché non mandiamo lì a Vipiteno, lì dei 44, lì ciabattanti, lì politicamente parlando, la Madia, lì la Boschi, la Boldrini, no, lì... No. Questo è un altro, ovviamente, un padano. Il potere falso che... Puoi dire a quell'animale di Cardia che verremo a conquistare anche Roma, tutta piena di moschee, alla faccia di lighisti, diremo, e di farabutti come voi. Ma perché definisci quel cantantore? Ma quale cantantore quello lì? Un coglione quello lì, cos'è? Maledetti lighisti. Senza dubbi né ripensamenti. Senta Sebe, ma quel marocchino che ha telefonato prima, sì. ma che cazzo vuole questo qui? Vuole venire qui in Italia a comandare e fare il cazzo che vuole lui? Il marocchino passa no. Luca, dimmi. Mi sembra una banda di ubriachi, questo marocchino, il padano ubriaco, Varin è fuori di testa. Vabbè, ragazzi, la Radio Padania è un mondo meraviglioso dove succede qualsiasi cosa, eh. Cioè, è stupendo, eccetera. Io vorrei che resistesse a lungo ancora, però non lo so se ce la faranno, non lo so. Andiamo a Napoli, Michele, vai. Eccomi. Dimmi Michele, dimmi. Vai, buonasera, Michele. Signor Cruciani, ciao. Dimmi. Io ho una domanda da farti. Ma lei ha animali? Io no, non ho animali a casa, no. Nessuno, sua mamma, sua sorella. Ma sua sì, padre, abbiamo sempre avuto. Non conosci amici che ha animali? Ma sì, pieno di amici che ha animali, pieno. Ottimo. Gatti, ottimo. Cani, condivido, chiunque. Condivido il rispetto per i suoi amici, ma per il suo no. Io le devo fare una domanda. Qual è la domanda? Quando va a casa di questi suoi amici? Ma lei li accarezza i cani? Ma succede, posso. Fa le foto, si fa i selfie con i cani? Ma no, i selfie no, con i cani è difficile fare i selfie con i cani, ma comunque insomma no. Anche perché i cani non sono consapevoli di fare un selfie, insomma, al massimo puoi farti fotografare con un cane. Loro no, ma noi sì, infatti su Facebook, su Instagram è pieno di persone che si va bene, Michele, alla fine, in sostanza, che cazzo vuoi? Alla fine io volevo sapere, ma come mai le schifa così tanto gli animali? Ma io non li schifo per niente gli animali, ma tutt'altro. Ma a perché me non sembra. Ma non è così, cioè non è così, Michele, non è assolutamente così. Io ho rispetto delle persone che rispettano prima me stesso, poi gli altri. E allora? E allora? Tutte le spese animali. E allora? Io devo dire che io non ho rispetto per lei. Vabbè, non hai rispetto per me, me ne farò una ragione, insomma, no? Le volevo chiedere, lei, sì. Diciamo, come alimentazione, mangia di tutto, logicamente? Sì, mangio abbastanza di tutto, sì, devo dire la verità. Allora, se per caso viene qui in Italia, oppure viene da lei a casa domani mattina un negro, si mangia lei e diventa un cannibale, come la condivide? Vabbè, Michele, questa è una stronzata, dai, su. Ma che questo fa il paragone, Luca, tra il cannibalismo e quelli che i carnivori. Tu ne dici di miliardi al giorno di stronzate. Può darsi, ma su queste cose non le dico, però. Cioè, Michele, però stasera hai fatto il pieno. Dici di peggio, scusami. Che cosa dico, per esempio? Hai detto prima hai fatto il paragone, diciamo, delle prostitute. Che cosa? Qual è il paragone che ho fatto con le prostitute? Dimmi una cosa, per quanto riguarda invece l'allenamento fisico, come trovi il modo in cui le persone interagiscono con gli animali e se vanno a passeggio? Cioè, per quale, secondo te, come è un'ottima metodica di allenamento andare? Vabbè, Michele, già mi hai rotto le scatole, ciao. Ma hai rotto le scatole, ciao, ciao, ciao. Ti ho ascoltato per 3 ore per la radio. Ma io voglio ascoltarti solamente per 2 minuti, scelgo io, ciao. Allora, io non capisco perché Telese se l'è presa con alcuni sindacalisti della Meridiana, i quali, ha pubblicato un articolo su Tiscali, i quali, dopo aver raggiunto un accordo, cioè dopo aver raggiunto un accordo per il licenziamento di 406 persone della Meridiana, compagnia di bandiera che è passata in mano araba pure quella, si sono visti la partita e c'è una foto che li ritrae mentre ridono. Non riesco a capire qual è il problema, Luca. Cioè, francamente, non riesco a capire il problema. Me lo puoi spiegare perché questa indignazione? Perché non potevano ridere dopo e non si potevano vedere la partita dopo aver trattato il licenziamento di 400 persone? Intanto bisogna spiegare che erano 900 dipendenti, 200 se ne sono andati volontariamente, 400 sono stati licenziati. Quindi è una specie di campo di battaglia. Pretendo di dire alla gente come si debba comportare, però francamente che 31 ore di trattativa finiscono alle 5:15 in tempo per stirare il verbale, vedersi la partita e poi l'area questa così rilassata e te la vedi al Ministero del Lavoro, a me sembra un po' una follia, scusa Giuseppe, mi tocca a me fare l'antisindacale mentre tu fai l'amichetto dei sindacati. Un sindacato non è un burocrate, devi rappresentare quelle persone che hai messo sulla strada e secondo me non le rappresenti bene guardandoti la partita dell'Italia al Ministero del Lavoro. Ma ho capito, ma questi qua hanno fatto... Ma a casa tua, mettiti gli occhiali da sole, stai pure un minuto raccolto in silenzio. Su 900 sono andati a casa 600, cioè non resti in questo clima carino in cui sembra che tutto sia stato fatto anche in tempo per non perdersi un minuto della partita. Ognuno di noi ha degli impegni privati e degli impegni pubblici. L'impegno pubblico è un vincolo. Sì. Tu, se fossi stato rappresentato da quelli, ti saresti incazzato. Guarda, tant'è vero che se uno va a vedere sul sito, sul mio pezzo, ci sono 100 commenti di insulti per i sindacati che trovo persino esagerati. Io non ce l'ho con tutti i sindacati, ma con quei sindacalisti sì. Ma io non capisco una cosa, adesso lungi da me difendere i sindacalisti, questi qua hanno fatto una trattativa. No, li stai difendendo. Ma io sto difendendo il fare... fatto che quelli a un certo punto vedono la partita, perché non è che uno è obbligato a non vedere la partita e a sotterrarsi perché ha fatto una trattativa in cui che ha portato al licenziamento. Ma vanno a vedere in un pub, a casa ma tua. Non ho capito, ma se quelli si trovavano lì la partita sul tuo posto di lavoro, cioè, secondo ma te non lo credo, ma se quelli fino a tre secondi prima uno che lavora in un ufficio si vede la partita in ufficio. A proposito di partita, non capisco perché Vittorio Sgarbone, Vittorino Sgarbi, a un certo punto se ne è uscito dicendo questa roba qui, cioè se ne è uscito dicendo che fanno cagare quelli che guardano il calcio, fanno cagare. Cercatemi il numero di telefono fuori che non ce l'ho sotto. Fanno cagare quelli che guardano il calcio, ma dai, su. Andrea Roma, ma intanto non si Andrea. Riferiva alla trattativa Andrea di Roma, chiamatemi Sgarbi, Andrea Roma. Andrea, dimmi Andrea, dimmi. Andrea, che stai facendo? Luciani. Che stai facendo, amico mio? Luciani, sono uscito adesso dal bagno, mi sto a fare la doccia. Io dimmi. Senti, una cosa volevo fare, una riflessione. Quante docce ti fai? Vabbè, una doccetta al giorno. Ma che doccia al giorno? Ma sei malato se ti fai una doccia al giorno? Ma guarda che tu sei zozzo tra le pisciate che ti fai nei lavandini e le poche docce. Io eh? Non ho mai pisciato nel lavandino, ho detto che è legittimo pisciare nel lavandino. Sotto la doccia sì, ogni tanto faccio la pipì, ma pure Telese farà la pipì sotto la doccia ogni tanto. Facciamo una molto, è un piacere. No? È un piacere, ha detto. Vedi, è un piacere, altro che Parenzo. Cioè, facciamo una riflessione seria? Qual è la riflessione seria? Che sensazione è quella di fare la pipì sotto la doccia, Luca? È una sensazione carina, cioè di il corpo che si libera, i liquidi che entrano in circolo, no? Ma sì, ma assolutamente, quando sei lì si mischia, no? Questo la pipì che si mischia all'acqua che scorre, al sapone, eccetera, quasi non te ne accorgi. Questa sensazione anche di calura, no? Nei piedi ogni tanto che c'è, e poi vedi questo piccolo rivolo giallo che si infila dentro. Ma chi non l'ha mai fatto? No, Parenzo, per esempio, Parenzo sostiene di non averla mai fatta. Vabbè, Andrea, dimmi. Ma dico, tolte le pisciate nella doccia, io volevo fare una riflessione interessante a questo punto. Tolte le rotture di coglioni di Hamid, delle cose, eccetera, eccetera. Ma tu che lavori nella comunicazione, cioè stai visto in televisione, eccetera, eccetera, ma una tagliata a quei capelli da Oasis che sai, ma la vogliamo, dai? Ma scusa, ma io sarò padrone di farmi i capelli come cazzo, mi pare. Ma sei antico, Cruciani, sei antico. Ma sarò antico, ma lascialo giudicare gli altri, a me non me ne frega niente. Cioè, io ma, porto ma i capelli. Ma va a fare il pungente, va a fare il pungente, le ospitate, fai il pungente con quei capelli lì da Fantachirò. Sei antico. Sì, ma parla meglio, sennò non ti sentiamo. Fantachirò. Cruciani, sei antico, taci. Attaccami, ma sei antico. Sono antico, bene. Ciao. Federico Ascoli, vai. Vai, io ti ammiro, sono uno speaker radiofonico anch'io. Vai. Senti, però bisogna essere seri e concisi, nel senso che quello lì dell'Islam, se ti vergogni, lo faccio io. Cioè? Mandarlo a fare in culo ce lo mando io, tranquillo. Ma no, ma Federico da Ascoli lo manda a fare in culo, glielo puoi dire. Ma non ho bisogno di mandarlo a fare in culo. No, invece lui però se lo merita, e questo è il bello. Vabbè, ma non voleva parlare, considera le donne, dice che si copre quando vede una donna. Sì, ma già la prima parola che ha detto, sono nel mio paese, già lì ha sbagliato come si è posto. Capito? Vai Federico, dimmi, che mi volevi dire? Senti, no, volevo spiegare una cosa a David che non c'è adesso. Penso no, che non c'è via, perché no? Sta facendo la trasmissione, dimmi. No, volevo fargli capire, se Madre Natura con qualcuno non è stato magnanimo, che non gli ha fatto la bellezza, cosa che lui nemmeno ha, chi ha la fortuna di lavorare in radio e quindi non essere famoso, ma chi? E ha la possibilità una persona di pagare una donna, non vedo il motivo per cui non possa pagare una donna, ecco, cioè. No, ma questo è fuori discussione, ma se lui pensa che quelli che vanno a prostitute sono dei miserabili perché dovrebbero sapere prima se una donna è sfruttata o no, ma è una follia. Se uno non lo sa, allora va a casa sua e gli fa scopare sua sorella. Ma poi non è compito di ognuno di noi scoprire se una persona è sfruttata o no, cioè questo è il compito della polizia, cioè non è che io posso chiedere la carta d'identità, sono sfruttata e dunque decido no. Non siccome... capisco perché lui si prende questa briga di dire che le persone che vanno a puttane praticamente sono persone inguardabili. Vabbè, ma perché lui ha la fissazione di dividere il mondo in due, quelli che vanno a puttane, quelli che hanno bisogno di pagare per fare sesso e quelli che non hanno bisogno. Anch'io non ho bisogno. Se lui non lavorasse più in radio, la donna lo lasciasse, lui andrebbe sicuramente a puttane. Ma beh, questo non è detto, Federico. È brutto come un cesso, diciamoglielo. Vabbè, però. Adesso brutto come un cesso. Io Luca, difendi Parenzo. Quello però non è, e qua se facciamo il linguaggio della verità, tutto si può dire tranne che Parenzo è un adone. No, ha non ragione, è Varin, sta parlando di Parenzo, secondo me. Sta parlando di Parenzo, non di Varin. È brutto come un cesto. Di Parenzo, Parenzo, Varin. No, che Varin, Parenzo. No, poverino, perché Davide è carino. Vai, bene. Adesso carino, dai, su, carino. Cioè, ha il suo fascio. Dai, Federico, sì, perché dici che è orrendo? Non ho capito. Ma perché lui, dai, parliamoci chiaro, dai. Uno come Parenzo, se non lavorasse in televisione o in radio, non prenderebbe solo cazzi, secondo me. Ecco. Beh, adesso prenderebbe solo cazzi, questa è una scelta che prescinde dalla televisione o dalla radio. Cioè, non è che la radio immunizza da questa cosa che tu immagini. No, però ti dà quella potenza, no, sai com'è, io sono famoso. Sì, ma ho capito, ma è pieno di gente che fa televisione e radio, che è pieno di gente che fa televisione e radio che prende piselli, come dici tu. Scusami, ma è pieno di gente che prende cazzi e non fa né televisione e radio. Credo esatto. Che cose non siano vincolate una esatto volta. Domenico, provincia di Alessandria, vai. Ascolta, io sono intervenuto perché per rispondere a quel signore musulmano di chi non ricordo il nome di prima, volevo dire soltanto questo, che la cultura musulmana è inconciliabile con quella occidentale, proprio loro stanno facendo un'invasione dal mio punto di vista del territorio. Lo so, io su questo la penso diversamente probabilmente da Luca. In gran parte secondo me la cultura musulmana è abbastanza inconciliabile con la nostra, però amico mio, che dobbiamo fare? Sono musulmani anche i curdi che hanno liberato Falluja, ricordatevelo. No, ma i principi, alcuni principi sono andati a morire, quelli hanno versato il sangue musulmano per liberare Falluja, sono laici e sono comandati dalle donne, quindi direi che siamo proprio, la nostra idea musulmana è uno dei tanti stereotipi musulmani. No, ho capito, però come si chiama quell'ascoltatore di Verona? Quello di Verona, chi è quello di Verona? Sì, quello famoso della zanzara un po' tradizionalista. Non me lo ricordo. Ah, sì, come no? Ma non l'ascoltatore, dici quello di quello ascoltatore della zanzara ogni tanto chiama, no? Quello che sembra Torquemada. Ma Ruggero. Sarebbe come se dicessimo che tutti i cattolici sono come Ruggero e finiamo male. Osama, provincia di Roma. Ecco Osama, va. Interviene Osama, vai. Osama, dimmi. Buonasera, io vorrei chiedere una piccola cortesia. Sì. Quando cominci a parlare di una religione, perché una cosa tocca milioni di persone, non puoi chiamare l'ultima persona ignorante sulla terra per risponderti alle domande. Puoi chiamare persone colte. Persone ma tu usi la mano destra, tu prendi il pisello. Io se faccio le sega, vado con altre donne, faccio tutto quello. La sodomizzazione, la pratichi la sodomizzazione? Perché una cosa mi riguarda solo a me e mio Dio, non riguarda nessuno. Scusa, sodomizzazione, okay? La pratichi o no la sodomia? No. E perché? Assolutamente. Perché? Ma ti fa schifo perché è vietato? No, mi fa schifo. È a pensare, mi fa schifo come tanti italiani, come tanti occidentali. Beh, no, a te la questione è religiosa. Non è religioso, no, assolutamente no. Non ma è figurati se ti fa schifo, dai, ti fa schifo, a nessuno fa schifo. Bevo la birra, bevo il whisky, ok? D'accordo, ma okay. La sodomia ti fa schifo perché la religione te lo prescrive. Però, no, ti devo dare un consiglio solo per essere più credibile, qual è? Più signore, più radiofonico, più come ti posso ma dire? La masturbazione la pratica o no? Quando vai a chiamare uno, non devi chiamare perché vuol dire imam, non vuol dire ma che non era imam formato. Quello, scusa, ma chi ha detto che è informato? Un asino, okay. Ma sì, ma chi dice il contrario? Osama, non ho capito, tu la masturbazione la pratica o no? Certo. Ah beh, sì. Allora qualche frustata te la meriti, Ma io praticavo anche quando vivevo in Egitto, io vengo dall'Egitto, vivo qua da 20 anni. Sei un peccatore islamico, è peccatore, nessuno. Quante mogli hai? Okay. Io una, E quante è cattolica. E quante ne potresti avere, secondo te? Giusto? La poligamia è giusta? È giusta, certo che è giusta. È giusta la poligamia, cioè è giusto avere più mogli. E certo. Basta. Poi uno arriva sempre là, capito Luca? Uno arriva sempre lì. La poligamia è giusta, tu capisci, no? Che poi alla fine quando uno dice la poligamia è giusta, o no? Luca? Più mogli. Allora è giusto anche per le mogli avere più mariti. Ma ragazzi, devo chiudere domani, ciao. Ma tu fai tutto mascolino, ma ti hai niente cosa da picchio sempre. Ti saluto merdoso. Merda, ti saluto. Merda, ti saluto, vaffanculo. Merda, basta, vaffanculo, bastardo. Ciao. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.